Buongiorno. Buongiorno, grazie e benvenuti a questa quarta stagione delle lezioni di jazz. Vedo che siamo un po' meno del solito, la prendo come una buona notizia, cioè si va scremando il pubblico e solo i migliori, spero i migliori, no? Non vorrei che si scremasse in quell'altro senso. Prima di cominciare, o meglio, sì, voglio cominciare subito la lezione di oggi, ma come sapete, insomma, in queste ore siamo tutti turbati, se non scossi, profondamente per quello che sta succedendo in Europa e a Parigi in particolare. E penso che non dobbiamo ignorare questa cosa, anche se siamo qui a parlare di musica, anzi, proprio perché siamo qui a parlare di musica. E, ieri sera, complice la digestione dopo una cena a casa di un amico che è qui, ieri sera ho pensato come avrei potuto omaggiare, parlando di Billy Strayhorn, le vittime di Parigi e come possiamo affrontare questa cosa. E mi sono ricordato che quando morì Billy Strayhorn nel 1967, al funerale di Billy Strayhorn, Duke Ellington lesse una breve orazione funebre per Billy Strayhorn e citò quelle che erano le quattro libertà fondamentali secondo Billy Strayhorn. Si tratta di una parafrasi di un famoso discorso di Franklin Delano Roosevelt, quando Roosevelt annunciò l'entrata in guerra degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, fece un famoso discorso radiofonico in cui parlava delle quattro libertà. Ellington ci dice quali erano le quattro libertà secondo Billy Strayhorn. La prima è libertà dall'odio senza condizioni. La seconda è libertà dall'autocommiserazione. Libertà dalla paura di fare qualcosa che aiuti il prossimo più di quanto lui voglia. E libertà da quel tipo di orgoglio che può far sentire un uomo migliore del suo fratello. Mi pare sufficiente. A fine mese ricorre il centenario della nascita di Billy Strayhorn, uno dei più grandi compositori di jazz, uno dei grandi compositori di musica del Novecento, eppure un uomo che ha vissuto tutta la sua vita nell'ombra, o forse dovrei dire all'ombra di qualcun altro, cioè all'ombra di Duke Ellington. Billy Strayhorn viene ricordato come l'autore di un pezzo molto famoso di jazz che tra poco ascolteremo, e come colui che è stato il braccio destro di Duke Ellington. Quindi con una visione un po', se volete, riduttiva, il braccio destro di qualcun altro, la parte di qualcun altro, senza una sua vera autonomia. Tant'è vero che per molti anni i critici hanno fatto fatica a distinguere quello che aveva scritto Ellington da quello che aveva scritto Strayhorn. Tanto era quasi camaleontica la capacità di Strayhorn di aderire al mondo sonoro di Duke Ellington. Negli ultimi 15-20 anni abbiamo scoperto, grazie a degli studi musicologici fatti da uno studioso e un caro collega molto importante olandese, Walter van de Leur, abbiamo scoperto in realtà che Billy Strayhorn aveva una personalità autonoma, che questa personalità autonoma è facilmente riconoscibile, identificabile e che soprattutto è un grande compositore dotato di una sua, di un suo mondo peculiare, personale, ben distinto da quello di Ellington. Ed è il viaggio che vorrei farvi fare oggi all'interno della musica di Billy Strayhorn, che era un musicista che veniva da Pittsburgh, era nato quasi 100 anni fa, il 29 novembre 1915, è scomparso per un tumore a 52 anni nel 1967, e era nato a Pittsburgh, una città operaia, veniva da una famiglia operaia, ma il talento musicale ha poi spinto la famiglia a farlo studiare in conservatorio. Diciamo che Strayhorn ha alle sue spalle degli studi accademici tradizionali, cosa che peraltro vedremo ha una sua importante influenza. Già quando era a scuola, alle superiori, scrive musica, scrive canzoni, addirittura scrive un piccolo musical, insomma ha una facilità compositiva notevole. In particolare, poi lui, oltre ad avere questa facilità compositiva, si ritiene soprattutto un autore di canzoni, ma non solo un autore di melodie, un autore di testi. Lui si considera principalmente un autore di testi, un lyricist, si dice in inglese. E in effetti alcune delle prime opere sue che abbiamo sono canzoni bellissime che poi lui ha continuato a incidere, a suonare, a far suonare ad altri, come vedremo, nel corso degli anni. Queste canzoni sono state scritte a Pittsburgh prima dell'incontro con Duke Ellington, anche se poi sono state, ripeto, incise anche da Ellington più tardi. Una delle più belle si chiama A Flower is a Lovesome Thing, dove lovesome è un gioco di parole su lonesome, cioè non solitario ma amorevole, diciamo così. Qui vi ho messo il testo, adesso tra un attimo la sentiamo. È una canzone non semplice nel suo percorso melodico, è molto tornita, è molto giocata sui dettagli, non è apparentemente, come posso dirvi, cantabile, melodica nel senso più immediato della parola, e contiene una sapienza di costruzione, per esempio nel gioco di simmetria della melodia. Io adesso la faccio senza l'armonia. La melodia comincia così. Ok? Questa idea viene ripetuta. Come se fosse sospesa, poi si sviluppa. Quindi abbiamo una seconda idea che è questa, che poi viene ripetuta, spostata. Scusate. E poi simmetricamente viene ripresa la prima idea. Quindi comincia così, poi prosegue così, ok, ripete la melodia e poi chiude simmetricamente in questo modo. C'è un'idea A, al centro c'è un'idea B, questa idea B viene ripetuta e poi viene ripresa l'idea A. C'è un'idea di simmetria, che è una cosa che in realtà si trova spesso nelle canzoni, magari nascosta, non è ben percepibile, ma dà solidità alla costruzione. Io vi farei sentire una esecuzione del 1965 di questa canzone, fatta da un cantante che lavorava nell'entourage di Ellington, si chiama Ozzie Bailey, non è molto famoso, e ci interessa in particolare non solo perché lui canta molto bene, ma perché al pianoforte c'è lo stesso Billy Strayhorn. A flower is a lovesome thing, a luscious living lovesome thing, a daffodil, a rose, no matter where it grows, is such a lovely lovesome thing. A flower is the heart of spring that makes the rolling hillside sing, the gentle wind that blow gently, for they know a flower is a lovesome thing. Playing in the breeze, swaying with the trees, in the silent night or in the morning light, such a miracle. Azaleas drinking pale moonbeams, gardenias floating through daydreams, No matter where you go, wherever it may grow, a flower is a love song. A 24 anni Billy Strayhorn scriveva queste cose, una canzone che è anche molto diversa dalla tradizione della canzone americana, è inusualmente sofisticata nelle armonie sospese, nella parte molto meno cantabile della centrale, quasi altrettanto sospesa e con delle frasi che si interrompono nel nulla, e poi invece le simmetrie che abbiamo visto prima. Quando nel 1939 l'orchestra di Duke Ellington, di cui Strayhorn era un ammiratore, arrivò a Pittsburgh, questo ragazzo piccolino, Strayhorn era di statura molto piccola, si avvicinò a Duke Ellington, andò dietro i camerini e gli fece vedere questo ed altri pezzi che aveva scritto, dicendo: io sono un paroliere, cioè questo aveva scritto questa canzone così, sì, sui fiori, va bene, però aveva scritto questa musica pazzesca, ma lui si riteneva un paroliere. Gli disse: io sono un paroliere, questi sono i lavori che faccio, ti interessano? E Ellington vide questi spartiti, rimase di stucco e gli disse: non appena capiti a New York, vieni a trovarmi e ne parliamo. Tra il 39 e il 40, ovviamente Strayhorn non se lo fa ripetere due volte, va a New York, incontra Duke Ellington e Duke Ellington lo ingaggia immediatamente nell'orchestra come arrangiatore, non certo come paroliere, ma come arrangiatore dell'orchestra. E dal 1939 comincia la parte più importante della carriera di Billy Strayhorn, il suo rapporto con Duke Ellington. Magari diremo qualcosa più avanti su questi due personaggi che non potevano essere più diversi. Qualcosa magari lo diciamo adesso. Intanto fisicamente Ellington era alto, prestante, Billy Strayhorn lo vedete meglio nella foto a destra, era piccolino. Immediatamente gli diedero in orchestra un soprannome, Sweepy, sarebbe Pisellino, il personaggio quello di Braccio di Ferro, ce l'avete presente, quello che sta sulle spalle, perché era così, poteva stare sulle spalle di qualcuno. Quindi Pisellino era il suo Sweepy, immediatamente il suo soprannome. Ma poi c'erano molte altre cose che caratterialmente dividevano i due personaggi. Ellington era un autodidatta, era stato un autodidatta musicalmente. Billy Strayhorn invece aveva una formazione accademica. Ellington era un viveur narcisista, egocentrico. Invece Billy Strayhorn era un uomo che amava stare nell'ombra, non voleva i riflettori su di sé, preferiva l'anonimato. Uno era un eterosessuale promiscuo, impenitente, l'altro invece era un omosessuale fedele a un compagno con cui è stato per tutta la vita. E, tra l'altro, questo è un aspetto non perché ci interessino, come dire, gli orientamenti sessuali di Billy Strayhorn, ma è rilevante il fatto che Strayhorn, in un mondo profondamente omofobico come quello del jazz, ebbe la forza e il coraggio di dichiarare la propria omosessualità fin dall'inizio, senza problemi. Vi potrà sembrare, come dire, secondario, ma vi assicuro che nel mondo del jazz questo è un aspetto abbastanza raro, soprattutto poi per un musicista nero che già vive, siamo negli anni 40, vive la discriminazione per legge razziale, per il colore della sua pelle. Dichiarare poi anche la propria omosessualità fu un gesto molto importante. Non a caso la comunità gay statunitense, per esempio, considera, se andate a vedere anche i siti, per dire, dove si parla di attivismo gay nel campo dell'arte, Billy Strayhorn è considerato un punto di riferimento proprio per questa sua presa di posizione molto, molto chiara. Arrivato nell'orchestra di Duke Ellington, il primo pezzo, uno dei primissimi pezzi che Billy Strayhorn scrive, è un pezzo incredibile, è un pezzo che poi gli darà la fama per tutta la vita, il famoso Take the A Train. prendi il treno A è la linea di metropolitana che porta ad Harlem, come dire, vieni ad Harlem, scrive questo pezzo swing nel 1941 che poi diventerà celebre un po' più avanti, negli anni 50 e 60, quando Duke Ellington lo userà come sigla dell'orchestra e quindi tutte le sere il pubblico di tutto il mondo riconoscerà questo pezzo, lo associerà a Duke Ellington senza sapere che in realtà è stato scritto dietro le quinte integralmente da Billy Strayhorn. Noi adesso ce la riascoltiamo nella versione originale, ricordando che il pezzo in realtà fu scritto per il solista principale di tromba che sentirete, il trombettista Ray Nance, un altro personaggio a dir poco eccentrico, uno che suonava la tromba, il violino, cantava, ballava il tip-tap, era veramente un personaggio pazzesco. Vi chiedo di ascoltare, il pezzo è famoso, insomma, penso che lo conosciate quasi tutti, quindi, visto che è un pezzo molto noto, vi suggerisco di concentrarvi su alcuni aspetti. Il primo è, quando sentite il tema, tra l'altro al pianoforte sentite Duke Ellington, non è Strayhorn, quando sentite il tema, ta-ti-du-ta-ti-do, quello celebre, fate caso che dietro l'accompagnamento del resto dell'orchestra è fatto prevalentemente da trombe e tromboni e c'è un grande attivismo dei tromboni, soprattutto nella parte B. E ci sono questi tre tromboni che si muovono come se fossero un accompagnamento pianistico. Questo è un aspetto che Ellington aveva sempre, a cui aveva sempre dato attenzione e che Strayhorn assorbe immediatamente nella sua scrittura. L'altra cosa tipica di Strayhorn è che durante il primo assolo di tromba, quando la tromba è sordinata, c'è un accompagnamento questa volta dei sax, che non è il semplice sfondo che fa da tappeto al solista che suona sopra, ma invece è un movimento rotolante dei sax, come se fosse una contromelodia, come se fosse un contrappunto. Ecco, questa idea di avere un contrappunto, una seconda melodia sotto al solista, è, come dire, una traccia di quella preparazione accademica che Strayhorn si portava dietro nell'orchestra. Poi sentiremo un altro dettaglio, ma in un secondo momento. Ascoltiamo il brano. Thank you. Questa cosa che si risente il tema alla fine era una cosa abbastanza inusuale all'epoca. Ellington e Strayhorn la stavano proprio introducendo in questo periodo. Alla fine, e un'altra novità è che suonano piano, invece di fare il gran finale forte, lo fanno in diminuendo. E fare il tema alla fine poi diventerà un cliché del jazz che ancora oggi sembra irrinunciabile. E invece in quegli anni era una novità. Come vedete, quel gusto per la simmetria che abbiamo visto nella melodia di A Flower is a Love Something riappare qui a livello strutturale più ampio. C'è un passaggio in particolare di che voglio far notare, brevissimo, proprio un attimo prima che ricominci il tema, in cui si sente, diciamo così, la capacità armonica di Billy Strayhorn, la capacità di creare degli accordi molto complessi e molto dissonanti, che suonano normali, come se fossero una cosa ovvia, ma che poi quando uno li va a sentire in dettaglio, sono veramente stranissimi. Fate attenzione. Avete sentito questa specie di urlo dell'orchestra, è fatto da note tutte dissonanti che si sovrappongono in un accordo molto aspro, che però passa, come dire, passa tranquillamente, senza disturbare l'orecchio, ed è altrettanto singolare il fatto che un accordo così aspro abitualmente dovrebbe essere la porta che apre su un episodio ancora più aspro. Invece no, qui Strayhorn introduce questo accordo aspro e poi invece riprende il tema, che è molto più melodico, più cantabile, più ballabile, a un livello di dinamica più basso. Questo per farvi vedere come anche in un pezzo da ballo così apparentemente limpido c'è una sottigliezza, una sapienza di costruzione che questo compositore appena 26enne è in grado di manifestare. Un altro territorio nel quale Strayhorn immediatamente sembra eccellere è quello della ballad. Beh, insomma, lui si era formato scrivendo canzoni. Quindi scrivere pezzi lenti di carattere lirico sembra proprio, come dire, il suo ambiente, il suo territorio d'elezione. Qui io ho dovuto fare una scelta dolorosissima perché molti capolavori di Strayhorn sono dei pezzi lenti, delle ballad. Ne ascolteremo 2 o 3 nel corso di questa conferenza, ma avrei dovuto farvele sentire almeno 7 o 8, perché veramente lì ci sono alcune delle perle più straordinarie. Ma vorrei cominciare con Chelsea Bridge, dedicato al ponte londinese, dove peraltro Strayhorn non aveva ancora messo piede. È un pezzo molto particolare e vorrei farvi entrare dentro il disegno timbrico del pezzo. Anche qui ci sono delle armonie sospese, come in A Flower is a Love Something, c'è una capacità melodica magistrale, che sa essere al tempo stesso sospesa oppure in altri punti molto, come dire, molto narrativa, molto orecchiabile, ma in questo ascolto vorrei che mi seguiste, e lo faremo insieme durante l'ascolto, vorrei che mi seguiste nella capire come Strayhorn, che ha scritto interamente il pezzo, la composizione del pezzo, l'arrangiamento, l'orchestrazione, tutto, come Strayhorn racconta il pezzo attraverso dei colori. Allora, per capirlo dovete sapere che il pezzo ha una struttura AABA. Ora, in una scorsa lezione di jazz io ho spiegato cos'è la struttura AABA. Chi c'era lo sa già, chi non c'era s'arrangia naturalmente, anzi si deve pentire di non essere venuto nelle lezioni precedenti. C'è anche chi tenta l'applauso masochisticamente, cioè chi non c'era applaude a se stesso per non esserci stato, no? E vuol dire che praticamente quello che abbiamo detto prima, c'è un'idea, questa idea viene ripetuta, è una cosa intuitiva, no? Poi c'è un'idea diversa, la B, e poi c'è la ripresa di questa idea. Sono delle frasi melodiche disposte in quest'ordine, questo è il ritornello. Noi adesso ascoltiamo, in un respiro solo, questo brano che dura circa 3 minuti, e mentre lo ascoltiamo vediamo come, letteralmente come un pittore, Strayhorn dipinge i colori di questo pezzo, le diverse sezioni, le A e le B, d'accordo? Poi vi farò notare anche un dettaglio in un secondo momento. Direi allora di ascoltarlo. Aggiungo solo una cosa, che in questa fase Strayhorn sta in un certo senso come assimilando il linguaggio di Ellington, che è sempre stato un linguaggio coloristico, timbrico. Il cuore della poetica di Ellington è creare dei colori, Ellington, tra l'altro, era un sinestetico, ragionava in termini di accordi, suoni e colori. Molti suoi pezzi hanno delle parole legate ai colori nei titoli. Strayhorn sta assimilando quel mondo e gli sta dando una sua personalissima reinterpretazione. Se sentite in questo pezzo, per esempio nell'inizio, quando entra il tema con gli ottoni, un colore impressionista che vi ricorda Ravel, siete nel giusto. Se invece non lo sentite, interrogatevi sul perché, quali sono le vostre lacune, diciamo così. Mezzo di musica, magistrali, un senso della concisione, della sintesi eccezionali. Vedete che in pratica, a parte le coppie di sezioni AA, praticamente ogni sezione ha un colore differente. Gli ottoni sordinati con l'accompagnamento dei sax, la parte B, il sax tenore di Ben Webster, che non improvvisa, fa la melodia scritta da Strayhorn. Poi il tema A viene riprodotto in questo modo morbidissimo dai tre tromboni con i sax sotto. Il pianoforte fa una breve transizione e poi c'è una variazione scritta come l'avrebbe fatta un compositore classico, questo come Brahms o Schumann, scrive una variazione per cinque ance, ci torniamo fra un attimo, poi la B che prima era fatta dal colore scuro del sax tenore era fatta da un altro colore scuro, non cerca il contrasto, cerca l'analogia ed è il trombone, meno aspro del sax tenore di Ben Webster, più morbido ma sempre un colore scuro. E poi alla fine gli ottoni rifanno il tema accompagnati dai sax finché negli ultimi accordi non si ritrovano tutti insieme. Avete sentito questo effetto atmosferico, sospeso, vagamente appunto nebbioso, verrebbe da dire, pensando al titolo del pezzo. Contiene tra l'altro una idea timbrica straordinaria. Allora, dovete sapere che nelle orchestre di jazz di quegli anni i sassofoni in genere erano quattro, due sax contralti e due sax tenori, e avevano un carattere molto melodico, servivano a fare la melodia più che a creare dei colori. Ellington fu il primo compositore nella storia della musica a utilizzare invece una sezione, nel 1940, una sezione con cinque sassofoni, e di questi cinque sassofoni uno era il sax baritono. Ora, immaginate, avendo cinque sassofoni, lui poteva chiedere a uno di questi sassofonisti di non suonare il sax, ma di suonare il clarinetto. Alla fine si aveva questo colore: clarinetto, sax alto, sax tenore, sax baritono. In parole povere, il clarinetto e quattro sax. Questo suono è stato inventato da Ellington e da Strayhorn. Ed è un suono particolarissimo. Adesso ve lo faccio risentire. Anche perché è ovvio che il clarinetto, che è lo strumento più acuto, fa la melodia. Il sax baritono, che è lo strumento più grave, dovrebbe fare l'accompagnamento, le note più gravi. E invece no, sapete che fa? Fa la melodia anche lui, molto più basso. Quindi voi sentite due volte la melodia, in mezzo a questi altri strumenti, e viene fuori un colore stranissimo, che non si può descrivere, solo se ve lo faccio sentire vi rendete conto. In più Strayhorn, forte dei suoi studi, chiamiamoli così, classici, scrive, lo sentirete adesso, vi faccio risentire il passaggio, veramente come se fosse Ravel, è molto cromatico, è molto intricato. Fateci molta attenzione, soppesate ogni nota, il passaggio alla maniera di Strayhorn è semplice, scorre, è arioso, in realtà è di una complessità pazzesca. Provate a sentire il colore del clarinetto in cima ai sax. Ascoltiamo la parte AA, dove dice 5 ance più pianoforte. Ecco. Che colore? C'è anche lo baritono giù. Sentite qui. È veramente straordinario, in 8 battute c'è una grande quantità di note, ogni nota c'è un accordo diverso e ogni accordo ha un colore diverso. Non ci sono solo pezzi, nel primo Strayhorn, pezzi lirici come Chelsea Bridge o le canzoni che ascolteremo dopo, ma ci sono anche pezzi molto dinamici, come per esempio questo Johnny Come Lately, che è invece una specie di costruzione molto razionale nel tema. Parte da un'idea, che è questa. Ok? È la stessa nota suonata un'ottava sotto. È un re. Poi questa idea la fa andare in su, poi in giù, e poi, guarda un po' la simmetria, chiude con la stessa idea. Lo rifaccio. Poi lo ripete, e quando lo ripete lo fa lievemente diverso. A forza di far sentire queste note che scendono, chiude la frase con un'idea che compensa, che ascende. Ok? C'è una specie di matematica, diciamo così, della composizione. Qui vediamo il compositore che ha avuto un'idea, anche ritmica, e la replica, variandola di registro e di direzione. Scende, sale, scende, scende, sale, scende, scende variato, sale, bello. Questa idea viene ripresa anche nella parte B, soprattutto alla fine, dove poi Strayhorn riaggancia l'idea del salto. Il pezzo è molto dinamico, vi mostra uno Strayhorn che sa far ballare la gente e al tempo stesso scrive un pezzo come appunto se fosse stato Brahms, cioè o Beethoven. La tecnica è la stessa, perciò faccio questo paragone. Prendere una cellula e costruirci un pezzo molto dinamico. Thank you. troppo attivi. È un pezzo in una tonalità minore, dovrebbe essere triste. Invece è estremamente dinamico. C'è un pezzo che vorrei farvi sentire per chiudere questa prima panoramica delle tecniche di composizione di Billy Strayhorn. È un pezzo, scusate, che è rimasto inedito fino a alcuni anni fa. Dovete sapere che Strayhorn, poi lo chiariremo meglio dopo, ha scritto un sacco di musica che però poi l'orchestra di Ellington non gli ha suonato, per vari motivi, perché magari Ellington riteneva il pezzo non adatto al repertorio dell'orchestra, perché non c'era spazio, per mille motivi. E questi pezzi sono stati recuperati dal musicologo Walter van de Leur una quindicina d'anni fa e registrati in una serie di 4 CD con la Dutch Jazz Orchestra, un'orchestra jazz olandese, che ha quindi riproposto, o meglio, ha proposto al pubblico la conoscenza di pezzi di grande valore che erano rimasti sconosciuti. Quindi quella che ascolteremo adesso in realtà è una registrazione recente fatta appunto dalla Dutch Jazz Orchestra. Il pezzo si chiama Kashmir Kuti. Ops, chiedo scusa. Aspettate, rimetto la slide. Ok. Dicevo, il pezzo si chiama Kashmir Kuti ed è un pezzo molto particolare, non c'è improvvisazione, è un pezzo tutto scritto, un pezzo swing, molto rilassato, ha una melodia molto semplice, è fatto di 4 note che salgono, sono 3 note che salgono, una cosa del genere, molto elementare, ma notate come Strayhorn sembra riuscire a dare un respiro sinfonico alla scrittura per big band, perché continuamente non si capisce dove finisce il tema e dove comincia la variazione del tema. Se il tema stesso è una variazione di se stesso, se queste 4 note così elementari, come se gli permettessero in realtà di mescolare continuamente le carte, di scrivere un pezzo con una specie di flusso tranquillo, melodicamente molto elementare, di cui però non riusciamo a, come dire, a cogliere i contorni, perché cammina, fluisce, si evolve, si sviluppa e sembra poter andare da qualsiasi parte, in realtà una, come dire, un procedere molto quieto, senza che sentiamo tutte le sezioni. È un po' il contrario, se volete, di Johnny Come Lately. Cioè, lì c'era questa cellula che si divide e suddivide. Qui sentite un'idea semplice che si confonde continuamente con quello che viene dopo. È un pezzo semplice e maestoso al tempo stesso, che se ci pensate è una accoppiata non semplice da realizzare. Possiamo alzare un filo il volume, grazie. Thank you. Che meraviglia, eh? Dentro l'orchestra di Duke Ellington c'era l'abitudine di scrivere i pezzi per i solisti dell'orchestra, appositamente non per uno strumento, ma per una persona, per il suo stile, per la sua personalità. Questo rende tra l'altro difficile suonare questa musica da altre orchestre, come hanno provato a fare peraltro egregiamente i membri della Dutch Jazz Orchestra olandese, perché questa musica è pensata per Tizio, Caio, Sempronio, per Harry Carney, Johnny Hodges, Paul Gonsalves, Ben Webster, per quei colori, non per quegli strumenti, per quelle persone. Dentro l'orchestra di Ellington si stabilì una relazione molto particolare, artistica, fra queste due persone, fra Billy Strayhorn e il principale solista di sax dell'orchestra, Johnny Hodges. Anche qui una relazione umanamente molto singolare, perché mentre Strayhorn era colto, sofisticato, dandy, Hodges era invece un uomo semplice, molto, forse si incontravano sulla riservatezza, taciturno, un po' scontroso, timido, sicuramente non aveva quegli elementi, come dire, di appunto dandy che invece erano caratteristici della vita privata di Billy Strayhorn. Però queste due persone messe insieme hanno prodotto alcuni dei pezzi più memorabili della storia del jazz. Direi anzi che probabilmente che Johnny Hodges è stato la musa vera di Billy Strayhorn, e il sax di Hodges ha stimolato nella testa di Strayhorn melodie e soluzioni musicali assolutamente colossali, memorabili. Il rapporto fra i due ha prodotto una serie di pezzi che io mi limito qui ad elencare perché non riusciamo ad ascoltarli tutti, ma di cui, se qualcuno non ha familiarità con questa musica, prenda nota, perché è veramente sono capolavori assoluti. Noi ascolteremo un paio di questi pezzi, e in particolare vorrei farvi sentire Passion Flower, che è un'altra di quelle canzoni che Strayhorn scrisse quando aveva 23-24 anni, cioè prima di incontrare Ellington, a cui aveva scritto un testo, ma qui ascoltiamo invece una versione risalente grossomodo credo ai primi anni 60, un live dell'orchestra di Ellington, e sentite, scusate ho detto un'inesattezza, lui l'ha scritta per Strayhorn appena arrivato nell'orchestra di Ellington, mi confondevo con un altro pezzo che ascolteremo dopo, l'ha scritta per Hodges appena entrato nell'orchestra di Ellington, nel 40, e qui sentiamo una versione degli anni 60. Qual è il segreto della relazione fra i due? Il lirismo, il canto, ma un canto che, e questa è la cosa magica, adesso ve ne renderete conto ascoltandola, Strayhorn immagina sul pentagramma come quattro note semplici scritte lì, ma lui sa che quelle quattro note vanno a toccare qualcosa di profondo in Hodges, e Hodges gli darà un'interpretazione che non è l'interpretazione che di solito un musicista classico dà della notazione. Legge le note, gli dà un corpo, un respiro, un suono, un ritmo. No, qui c'è qualcosa di più. Strayhorn è come se avesse scritto un canovaccio, molto semplice, e permette a Hodges realmente di ricostruire e di dare corpo pieno e significato al pezzo. Quello che Strayhorn scrive sul pentagramma è poco significativo. È solo quando Hodges ci mette le mani che questa cosa prende vita e soprattutto viene, dire neanche completata, viene veramente pienamente realizzata, perché Hodges, lo sentirete, ci mette glissando, cresce, diminuisce, vibrato, mille varianti di intonazione, è qualcosa di magistrale. Ovviamente la parte orchestrale sotto è scritta dallo stesso Strayhorn. Al pianoforte c'è Duke Ellington, è un live dei primi anni 60. Thank you. Johnny Hodges. Eh sì, direi veramente mozzafiato. Una delle grandi differenze nella scrittura tra Duke Ellington e Billy Strayhorn, per cui è abbastanza, poi con un po' di esperienza diventa facile distinguerli, è che avendo Strayhorn una retroterra classico di studi più accademici, ha utilizzato spesso quello che tecnicamente si chiama il contrappunto. Prima che scappiate all'uso di questa parola più difficile, in realtà il concetto di contrappunto è molto semplice. È quando voi avete una melodia e c'è almeno un'altra melodia che viene suonata o cantata contemporaneamente e le due melodie sono diverse. Possono essere anche la stessa in realtà sfasate, per esempio quando cantiamo Fra Martino Campanaro, facciamo il canone sfalsato, quello è un contrappunto. La melodia è la stessa, ma essendo sfalsata noi percepiamo due cose diverse. Le voci possono essere 2, 3, 4, anche un numero molto elevato. Il contrappunto è di uso abbastanza raro nel jazz, non rarissimo, ma il jazz tende ad essere una musica molto più a blocchi, diciamo così, anche se poi le parti contrappuntistiche ci sono, ma la scrittura contrappuntistica è più rara, anche perché richiede, come dire, un impegno nella scrittura per cui lasci poco spazio all'improvvisazione e devi scrivere tutto il contrappunto, perché queste cose vanno scritte, vanno preparate. Strayhorn ha spesso utilizzato il contrappunto, in un caso lo ha fatto in maniera magistrale, geniale, in chiave drammaturgica. Mi spiego, c'è un disco bellissimo del 1957 che si chiama Such Sweet Thunder, ovviamente dell'orchestra di Duke Ellington, che è tutto dedicato a Shakespeare. Una delle cose belle delle lezioni di jazz è che permettono di allargare anche la vostra cultura. E quindi adesso, sapete, vi parlavo di Shakespeare. Chi era Shakespeare? No, scherzo. Questo disco, ogni brano di questo disco è dedicato a un personaggio shakespeariano, a una situazione dei drammi o delle commedie shakespeariane, oppure anche addirittura sono rielaborazioni musicali sonore dei sonetti di Shakespeare. Alcuni brani li ha scritti Ellington, alcuni brani li ha scritti Strayhorn, anche se sul disco la divisione non viene esplicitata in maniera chiara, cosa su cui torneremo dopo, sui rapporti fra i due a proposito di chi ha scritto cosa. Però c'è un pezzo in particolare che si chiama Up and Down, che è scritto da Strayhorn, che è dedicato, diciamo, è ispirato al sogno di una notte di mezz'estate. Come sapete è una commedia fantastica di Shakespeare in cui si racconta di questa specie di spiritello, Puck, una specie di mercurio, che ne combina di tutti i colori in questo giardino incantato, combinando e ricombinando continuamente una serie di coppie e di storie amorose. Questa commedia fantastica viene reimmaginata da Strayhorn in questo modo, in chiave musicale. Cioè lui pensa di associare ad ogni strumento o coppia di strumenti dei personaggi e in particolare attribuisce al flicorno di Clark Terry il ruolo di Puck, cioè praticamente voi sentirete questa tromba che svolazza su tutto il pezzo, improvvisando, non ha niente di scritto. È lo spiritello libero che si muove giocoso e anche beffardo in mezzo ai personaggi. Le varie coppie della storia sono incarnate da tre coppie di strumenti, il sax alto e il sax tenore, ve li dico nell'ordine in cui li sentirete entrare, il violino e il clarinetto. Il violino viene suonato da Ray Nance, il trombettista di Take the Train, e più avanti il sax alto e il trombone. Poi c'è un'orchestra che in realtà è ridotta, ci sono il sax baritono, due trombe e due tromboni. Perché sono entrato in questo dettaglio? Perché il tipo di scrittura ricorda un po', per capirci, i concerti grossi barocchi, come le stagioni di Vivaldi. Lì Vivaldi scrive per un violino e accompagnamento dell'orchestra, ma il concetto è lo stesso, si chiama un principio concertante, si dice tecnicamente, cioè un gruppo di strumenti e i concerti brandenburghesi di Bach, ecco, sono fatti in questo modo, gruppetto di strumenti e il ripieno, il resto dell'orchestra che dialoga con questi gruppetti. Strayhorn fa coscientemente questa cosa e scrive in modo contrappuntistico per le coppie, facendoli intrecciare fra di loro, mentre l'improvvisazione è affidata a Puck, il quale, peraltro, alla fine, sentirete, nella tromba di Clark Terry, pronuncia una frase che effettivamente Puck dice nella commedia di Shakespeare, che è esattamente Lord, what fools these mortals be. O signore, ma quanto sono sciocchi questi mortali. Questa frase, Lord, what fools the mortals be, viene proprio pronunciata sillaba per sillaba dalla tromba di Clark Terry alla fine. Ve lo farò notare. Alto e tenore. Violino e clarinetto. Alto e trombone entrano dopo. Tutti. Dare corpo alla drammaturgia shakespeariana in musica, Strayhorn si permette anche di mandare a carte 48 le strutture tradizionali del jazz. Qui non c'è un ritornello tradizionale, non c'è il coro su cui si improvvisa, c'è uno sviluppo continuo, poi il pezzo improvvisamente prende altre direzioni mentre le parti dialogano fra di loro. Cioè, grazie all'ispirazione letteraria, vedete tra l'altro a cui Strayhorn aderisce con molta attenzione, con molta puntualità, grazie a questa ispirazione letteraria, Strayhorn si può permettere anche di creare una nuova forma narrativa. È uno dei rari esempi in cui il jazz e il teatro si incontrano in maniera estremamente efficace. A un pezzo così complesso voglio accostarvi invece un pezzo semplicissimo. È una canzone, questa sì, scritta da Strayhorn prima di incontrare Ellington, si intitola My Little Brown Book. L'orchestra di Ellington l'ha suonata diverse volte, ma io ve la vorrei far sentire in una esecuzione magistrale, perché restituisce esattamente questa limpidezza e di questa semplicità nella costruzione della melodia. nell'incontro memorabile che ci fu nei primi anni 60 per un disco fra Duke Ellington e John Coltrane. Qui è il trio di Duke Ellington con Aaron Bell al basso e Sam Woodyard alla batteria, Coltrane, nella foto lo vedete al sax soprano, qui suona il sax tenore, e sinceramente non aggiungo niente, sentite come Strayhorn è capace di, come dire, come con un disegno a matita, di scontornare questa melodia semplice, e soprattutto sentite come Coltrane, che appartiene a una generazione successiva e suonava in quel momento musica completamente diversa, era uno dei campioni del grande e profondo rinnovamento del jazz, coglie in questo disegno una, come dire, un nocciolo di lirismo che restituisce senza il minimo di affettazione. Thank you. Anche questo era un pezzo giovanile, scritto a 24 anni e poi rieseguito appunto da Coltrane nei primi anni 60. E lo stesso compositore, quello di Up and Down, con quella complessità contrappuntistica, l'innovazione formale e questo narratore di piccole storie, diciamo così, di piccole canzoni che sono dei piccoli miracoli. Ecco, la semplicità che a volte c'è nella scrittura di Strayhorn è ingannevole. E secondo me bisognerebbe andare a sentire i dettagli, per esempio negli arrangiamenti che lui ha fatto per le cantanti. C'è un disco molto bello e al tempo stesso molto problematico che l'orchestra di Duke Ellington fece per Ella Fitzgerald. La Fitzgerald incise il Duke Ellington Songbook, cioè una raccolta di pezzi scritti da Ellington, cantati da lei e accompagnati dall'orchestra. Per qualche motivo Ellington non partecipò all'impresa e delegò tutto il lavoro di scrittura di questo album a Billy Strayhorn. E Strayhorn ha scritto degli arrangiamenti straordinari, sia dei pezzi di Ellington, sia dei propri pezzi, per la voce di Ella Fitzgerald. Tuttavia, per qualche motivo, nel disco che è stato prodotto alla fine, c'è una specie di sbilanciamento dei suoni, per cui si sente molto bene la voce della Fitzgerald, ma l'orchestra, si dice tecnicamente, è un po' indietro, non si sentono i dettagli, non è ben definita, è un po' schiacciata, e quindi non si apprezza tutta la ricchezza dell'arrangiamento di Strayhorn. Io allora vi faccio sentire un brano che si chiama Daydream, che fu arrangiato nel 57 da Strayhorn per Ella. Daydream è un'altra di quelle ballad memorabili che Strayhorn aveva scritto per Johnny Hodges, come Passion Flower che abbiamo ascoltato prima. È un pezzo straordinario, ma l'ascoltiamo da una voce, ma invece di sentire il disco originario di Ella, sentiamo il disco della Dutch Jazz Orchestra con la cantante Marjorie Barnes, che ha un colore, è una brava cantante afroamericana, un colore simile a quello della Fitzgerald, ma in questa registrazione moderna possiamo apprezzare l'incredibile gioco timbrico di Strayhorn dietro l'orchestra. Che cosa sentirete? C'è questa melodia che già di per sé è immortale, quella di Daydream, scritta da Strayhorn. Ma soprattutto dietro Strayhorn fa un lavoro che somiglia a quello dei compositori europei di secondo Novecento, cioè polverizza il colore. Invece di far sentire blocchi dell'orchestra, come spesso si sente dietro le cantanti, crea, dopo un'introduzione peraltro lo sentirete molto dissonante, sembra musica atonale, musica del primo Novecento tedesco, e poi invece dietro la voce crea un continuo un pulviscolo di timbri, di luci, di colori, sospeso e continuamente attivo in secondo piano dietro la voce. Grazie alla registrazione moderna potete sentire quanto fosse anche informato degli sviluppi più recenti della musica colta europea, Strayhorn, e fosse in grado di inglobarli dentro una cosa che sembra musica, è musica popolare, è una canzone che in realtà ha la dignità come se fosse un lead di Schubert, ma orchestrato come se fosse orchestrato così da Anton Webern, diciamo così. Merita l'applauso, veramente straordinario. L'ultimo brano che voglio farvi sentire prima di inoltrarci nella parte conclusiva della nostra conferenza illustra un aspetto un po' più sottile della creatività di Strayhorn. Il fatto, cioè, di scrivere pezzi che sono al tempo stesso dinamici, brillanti, ma sempre in bilico di qualcosa, cioè come se fosse quella dissonanza che sentite fosse sempre sul punto di rompere il pezzo, di impedirgli di andare avanti, cioè sono limpidi, lineari e al tempo stesso audaci. C'è un brano in particolare che si chiama UMMG, che si chiama Upper Manhattan Medical Group. Duke Ellington aveva un suo medico di fiducia, il dottor Arthur Logan, da cui andava molto spesso, che stava appunto in un edificio a Manhattan in cima a un grattacielo, e Strayhorn, in omaggio a questi amici, scrisse questo pezzo, UMMG. Tra l'altro Duke Ellington, non Strayhorn, utilizzava spesso un codice di 4 lettere per dare titoli provvisori ai pezzi, e questo era rimasto appunto con questo codice UMMG. È un pezzo che può ricordare alla lontana, che so, Take the Train o Johnny Come Lately, cioè uno di quei pezzi di Strayhorn da big band molto spinti, molto energici, ma ha un modo di procedere che sembra un po' sbilenco, ecco. Ed è strano perché in genere questo tipo di scrittura è sempre molto solida, nasce per far ballare, per dare il senso dello swing, per far muovere il corpo, ma al tempo stesso il pezzo sembra continuamente basculare, oscillare, variare. Ci sono dei come dire, degli artifici tecnici. Per esempio, lui usa molto spesso, adesso non scendo nel dettaglio, accordi come questo, che sono accordi abbastanza, cioè una cosa è suonare questo, bello chiaro, ma questo è un accordo molto più incerto nella sua definizione, anche nel dove può andare. Strayhorn lo usa in maniera magistrale. La versione che ascoltiamo è una versione curiosa, perché la foto che vedete è stata fatta proprio durante la seduta di registrazione, perché per un disco del 57 che si chiama Jazz Party, 59 forse, scusate, Jazz Party, c'è un ospite in sala che suona solo questo pezzo, WMMG, ed è Dizzy Gillespie. E quindi Strayhorn, che vedete al centro, adatta l'arrangiamento apposta per Gillespie alla tromba, che sentirete come solista principale. Ellington al piano. Scusami, puoi abbassare il volume? Ho fatto un errore, e succede anche ai più grandi. Ho messo un'altra versione, quindi vi chiedo scusa, è stato un lapsus. Non è questa, e quindi noi non sentiamo adesso la versione di Gillespie, che vi sentite a casa, vi ho fatto tutta l'introduzione, adesso sapete tutto della versione di Gillespie. Ma vi faccio sentire invece la versione registrata dopo la morte di Strayhorn nel 67. Scusate, è stato un lapsus. Vabbè, la foto risale alla versione di Gillespie, ma il brano lo ascoltiamo lo stesso perché è bellissimo. Quindi non è Gillespie il solista. Clark Terry. Thank you. Tra l'altro non si sente bene apposta, ma l'ultimo accordo è proprio questo. Adesso in un'altra tonalità, ma è quell'accordo sospeso. È tempo di dire qualcosa, andando verso la conclusione, sul rapporto fra Ellington e Strayhorn. Non abbiamo molti filmati di Billy Strayhorn, vi voglio far sentire, vedere un frammentino di pochi secondi in cui Ellington, durante un concerto, una trasmissione televisiva sembra, introduce Strayhorn, che ovviamente non è sul palco, è fra il pubblico, perché Strayhorn non amava farsi vedere, lo definisce seldom seen, always heard, cioè raramente visto, sempre ascoltato. È molto divertente, vi faccio vedere questo frammento e poi diciamo qualcosa. Thank you. One of the most important people in our group happens to be with us tonight. He's very seldom seen in public appearances, but he's always heard. It's my pleasure to introduce the eminent composer, orchestrator, Billy Strayhorn. A flat for Billy Strayhorn, huh? This rare public appearance would be one of Strayhorn's last. Qual era, al di là di questo sorriso, il rapporto fra Strayhorn e Ellington? È stato un rapporto molto problematico, soprattutto sul piano professionale, prima ancora che su quello umano. E va grossomodo diviso in due fasi. Una prima fase fino agli anni del dopoguerra, diciamo da quando Strayhorn entra in orchestra nel 39, fino ai primi, diciamo, fine anni 40, primi anni 50, e una fase invece dalla seconda metà degli anni 50 in poi, fino alla morte prematura di Strayhorn nel 67. Qual è questo rapporto? All'inizio Strayhorn arriva in orchestra, scrive, fa tutto quello che Ellington gli chiede. La prima domanda è, hanno mai scritto pezzi insieme? Per tanto tempo c'è stata questa mitologia secondo la quale la scrittura di Strayhorn e di Ellington era praticamente indistinguibile. Perché salvo rari casi in cui sul disco c'era scritto, che so, Daydream, Strayhorn, allora sai che l'ha scritto lui, per il resto i pezzi erano sempre firmati insieme, oppure firmati dallo stesso Ellington. Per cui si era creata la mitologia secondo la quale Strayhorn era, come vi dicevo prima, una specie di camaleonte, uno che aveva sì un suo stile, ma l'aveva messo completamente al servizio del suono creato da Ellington per la sua orchestra. La verità era un'altra. La verità è che fino alla fine degli anni 40, da un punto di vista professionale, Ellington obiettivamente ha sfruttato Strayhorn. I due non hanno quasi mai scritto nulla insieme. I pezzi che hanno veramente scritto a quattro mani sono pochissimi e spesso sono poche battute di pezzi più lunghi. La collaborazione reale è rara, ma non perché, come dire, per qualche motivo di sfruttamento, come vedremo dopo, ma perché da un punto di vista stilistico Ellington era consapevole che Strayhorn aveva un modo di lavorare diverso dal suo, un modo di scrivere diverso dal suo. Quindi Strayhorn scrive i suoi pezzi, Ellington scrive i suoi pezzi. Strayhorn arrangia i brani che Ellington gli commissiona e li fa alla maniera sua. Ellington è mai intervenuto su dei pezzi di Strayhorn? Sì, ma senza mai cambiare una nota. Sapete come? Togliendo dei pezzi, dei frammenti. Ellington era uno che ragionava a sezioni, per cui il pezzo è troppo lungo? Oppure c'è qualcosa che non gli torna? Lui, zac, tagliava letteralmente dei blocchi di arrangiamento e poi incideva il pezzo così, immaginiamo Strayhorn quanto potesse essere contento. Nei dischi dell'orchestra olandese alcuni di questi arrangiamenti vengono rieseguiti nella forma integrale. Tra l'altro, notate, l'operazione era particolarmente dolorosa per Strayhorn, perché, come vi dicevo, Strayhorn era un contrappuntista, uno che sviluppa, vi ricordate Kashmir Kuti, in cui il pezzo si sviluppa progressivamente. Invece Ellington ragionava come compositore a blocchi, quindi c'è uno che ragiona a blocchi che interviene su uno che ragiona a flusso. E quindi l'intervento a volte era piuttosto pesante. E poi c'era un problema del diritto d'autore. Come spesso accade nel mondo del jazz, Ellington faceva valere la prerogativa di essere il leader e quindi aggiungeva il suo nome ai pezzi scritti da Strayhorn. Per cui laddove trovate scritto Ellington barra Strayhorn, al 90% il pezzo è solo di Strayhorn, ma Ellington intascava una parte dei diritti. A volte addirittura Ellington cambiava i titoli dei pezzi, a volte metteva solo il suo nome e eliminava quello di Strayhorn. Questa pratica a un certo punto ha portato Strayhorn alla esasperazione e Strayhorn ha lasciato l'orchestra per alcuni anni nei primi anni 50. È andato a vivere in particolare a Parigi, città a cui era profondamente legato, con il suo compagno Aaron Bridges, che era un pianista di piano bar, un buon pianista e cantante di piano bar. Ma poi Ellington, diciamo così, si è riavvicinato, i due si sono riconciliati, immaginiamo, sulla base anche di accordi professionali ed economici più chiari e più limpidi, e Ellington e Strayhorn sono tornati a collaborare nell'ultima parte della vita di Strayhorn, con i risultati eccezionali che abbiamo sentito prima. Va detto, per onestà, che anche lì dove i crediti dei brani non sono del tutto limpidi nell'attribuzione a Strayhorn, nel corso degli anni Ellington versava un 10% del suo diritto d'autore su qualsiasi pezzo a Strayhorn. Cioè, se Ellington incassava $1,000, il 10%, non dico quant'è che non riesco a fare il conto, il 10% andava a Strayhorn, a prescindere da quello che aveva scritto Strayhorn. Era come un fondo cassa di riconoscenza nei confronti di Strayhorn. Al di là di queste frizioni, professionali, il rapporto fra i due è stato eccezionale, perché i due si completavano perfettamente da un punto di vista caratteriale. Per esempio, Strayhorn non faceva ombra al narcisista Ellington, anzi, era lì in platea, e da un punto di vista musicale abbiamo visto che avevano due mondi affini e diversi e complementari. Entriamo nell'ultima parte del nostro incontro. Tutti associamo Billy Strayhorn ad una delle più belle canzoni del secolo, Lush Life. Io ho sempre un po' di rabbia quando ci si dimentica che i grandi leader di Schubert o di Schumann in fondo sono canzoni, e le grandi canzoni di Gershwin o Billy Strayhorn sono come i leader, sono grandi pezzi in cui si associano musica e parole. Lush Life, secondo alcuni, è la più bella canzone del jazz, in assoluto. Non so se è il caso di fare classifiche, però forse ci andiamo vicino. È sicuramente una delle canzoni più straordinarie che siano mai state scritte. E Strayhorn la scrisse tra il 38 e il 39, tra i 23 e i 24 anni. Era uno dei pezzi che fece vedere a Ellington, quando Ellington arrivò a Pittsburgh, e Strayhorn gli disse: sono un paroliere, e gli mise sotto la musica e il testo di Lush Life. Ellington credo che non abbia neanche letto le parole. Ha visto la musica e ha detto: mio Dio, vieni appena puoi. Lush Life non viene suonata spesso, è un pezzo molto complesso, è un pezzo molto difficile da suonare, e non ha tutti quegli elementi di simmetria che abbiamo visto nelle precedenti composizioni di Strayhorn. Al contrario, è come una miniatura sinfonica, è una canzone in forma di sinfonia, o una sinfonia in forma di canzone. Ha una strofa e un ritornello, ma la strofa è lunghissima. Il ritornello è altrettanto lungo e sono tutti e due molto complessi. Non solo, ma tra la strofa e il ritornello c'è una ragnatela di rimandi, di echi, piccoli motivi, piccole torsioni armoniche, che ascoltandola, anche chi di voi non l'ha mai sentita, non percepisce la distinzione fra la premessa, la strofa e il ritornello. Sente un unico flusso, come una microsinfonia che si sviluppa per 3 minuti. Non a caso, Lush Life è un pezzo sul quale di solito non si improvvisa, non ha senso. La si suona così com'è, dalla prima all'ultima nota, e poi si finisce, perché non ci si può aggiungere nulla. Per alcuni esecutori, Lush Life è diventata un'ossessione. In particolare c'è un musicista, Tony Scott, che ha fatto di Lush Life l'ossessione della sua vita. Tony Scott incise addirittura un album doppio con una ventina di versioni diverse solo di Lush Life, un disco fatto solo di 20 versioni di Lush Life, suonato con vari strumenti, vari organici, dal quartetto d'archi al sax baritono da solo. Questa ossessione viene brevemente raccontata nel film che Franco Maresco ha dedicato a Tony Scott, Io sono Tony Scott, del 2010, un film bellissimo, anche perché io ho fatto il consulente per il film, quindi non può essere che così. E vi faccio vedere il frammentino in cui si racconta dell'ossessione di Tony Scott per Lush Life. I used to visit all the very gay places. those come with me places where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktail. Lush Life è uno dei dischi più bizzarri e al tempo stesso geniali del jazz. Contiene infatti ben 13 versioni diverse della canzone in assoluto più amata da Tony Scott, Lush Life per l'appunto, la celebre composizione di Billy Strayhorn. Quando il disco fu pubblicato, i critici lo definirono una sorta di confessione autobiografica, ma ci fu anche chi lo interpretò come il prodotto creativo di un maniaco ossessivo, giunto ad un passo dalla deriva psichica. Everybody who is a good jazz musician seeks, you want to put your stamp on what this. A week in Paris, la la la la la la la la la. So I've been singing Lush Life since I was six. And over the years, he would make us, you know, sing Lush Life. Questa è la figlia. Before dinner, before going to Luna Park, you know, up Lush Life. Dice che cantavano and then we'd go Lush Life, and then we'd go to Luna a casa, Park. Continuamente. Or, you know, sing Lush Life, and then we have Watermelon. Dice so prima di andare like, a Luna Park, it was prima nice, si canta Lush Life, poi usciamo. Also a punishment somewhere, like if you don't sing Lush Life, we don't go to Luna Park. Qui suonava Lush Life in tutte le tonalità. Franco D'Andrea. Tutte le tonalità. Trattasi di un pezzo di una difficoltà trascendentale. Credo che non solo la grande magia degli accordi di questo brano lo toccasse, ma anche il testo. Il testo parla di questo uomo che ha vissuto gran parte della sua vita in posti che dovrebbero essere posti di divertimento, dove però lui incontrava i volti di queste donne che erano sempre tristi e sempre grigi. E poi improvvisamente lui incontra questa donna e questa donna gli dà l'impressione che lui avrebbe potuto cambiare la sua vita e che lui avesse potuto vivere da quel momento in poi una lush life, una vita bella, luminosa. E cominciava a piangere mentre lui cantava questa canzone che poi dopo dice sì, mi ero sbagliato e quella di poter vivere una vita luminosa era per me forse un'illusione. Tony si rispecchiava forse in questo, forse il suo rimpianto per la vita stessa, una vita spesa in fin dei conti nei locali fra gente che non ti capisce. Ecco, questo era tutto questo per lui, Lush Life. Dopo Tony non si potrà mai più ascoltare questo brano come lui lo ha cantato. E allora io adesso vi faccio sentire Lush Life, come la si sente nei titoli di coda, ma non vediamo il film, in una delle tracce del famoso disco tutto dedicato a Lush Life, in cui Tony Scott fa cantare la figlia Monica, che avete visto, che ha solo 12 anni in questa versione. Quindi è stonata. È una ragazzina che canta Lush Life, non capisce forse neanche le parole che ci ha spiegato in maniera meravigliosa Sandro Cerino. Ma l'esecuzione è magnifica, è bellissima. Non vi sto a tradurre tutto il testo, Sandro Cerino vi ha grosso modo introdotti al senso della canzone. E questa è una bambina di 12 anni accompagnata dal padre ossessionato da questa canzone. Those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life, to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and selling gray faces, with the stung gay traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then you came along with your siren sign to tend me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong. Again, I was wrong. Life is lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now life is awful again. A trawful of hearts could only be a bore. A week in Paris, la la la la la la la la la, will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is much stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely too. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely too. Una vita luminosa impossibile, la solitudine di cui si parla nell'ultimo verso, forse era autobiografica già nel 39 questa canzone, perché nonostante la sua riservatezza forse Billy Strayhorn era anche frustrato dalla mancanza di riconoscimento della sua arte, pur avendo a disposizione la più importante orchestra jazz del mondo, quella di Duke Ellington. E uno dei problemi della vita di Billy Strayhorn non fu aver dichiarato la sua omosessualità, ma era l'alcolismo. E poi un tumore che lo aggredisce nel 1966 e lo porta alla morte nel 1967. La scomparsa di Billy Strayhorn è un trauma terrificante per tutta l'orchestra, ma soprattutto per Ellington, che è un uomo che aveva sempre e ha sempre rimosso l'idea della morte. Per Ellington era inconcepibile che uno potesse morire, semplicemente. E quindi lui addirittura, pur andando al servizio funebre di Strayhorn, dove poi lesse quel discorso con le quattro libertà che vi ho citato all'inizio, in realtà all'inizio non voleva andarci, era sparito, cioè si rifiutava di accettare l'idea che Strayhorn fosse scomparso. Morto Strayhorn, la prima cosa che l'orchestra fa è produrre un disco memorabile, tutto di sue composizioni. Il disco si chiama And His Mother Called Him Bill, sua madre lo chiamò Bill. È un disco che io, per esempio, di solito regalo alle persone che non hanno mai ascoltato il jazz. È un consiglio che vi do, visto che si avvicina il Natale. È un disco di una forza e di una bellezza mozzafiato. Dentro questo disco c'è un brano. Si intitola, i brani sono tutti di Strayhorn, un brano inedito che Strayhorn forse ha scritto, o comunque ha scritto quando era già malato, che ha vari titoli, alla fine lo pubblicarono con il titolo Blood Count, cioè l'esame del sangue in sostanza. È un pezzo molto cupo, scritto prevalentemente scritto per il sax di Johnny Hodges, la sua musa, il sassofono, per il quale aveva scritto già in passato tanti capolavori. Io vi faccio sentire Blood Count come una specie di testamento artistico di Strayhorn, dove peraltro, per esempio, il colore dei tromboni del sax baritono di Harry Carney assumono delle tonalità profonde di enorme intensità. L'orchestra suona con un'intensità vibrante e Johnny Hodges, come ha detto un critico, suona con una tale forza che sembra che esploda di rabbia per il fatto che Strayhorn non c'è più. Durante la registrazione di And His Mother Called Him Bill, i musicisti a un certo punto si rilassano, staranno bevendo, chiacchierano, e Duke Ellington, fuori da qualsiasi gesto esibizionistico, nonostante la fotografia non resista all'idea di mettersi in primo piano con Strayhorn sfocato dietro, si mette al piano e comincia a suonare un valzer di Strayhorn, che si chiama Lotus Blossom. Lo suona e per fortuna i tecnici avevano lasciato i microfoni accesi. Quel valzer è stato pubblicato, quella registrazione, come un momento di dialogo intimo fra le due persone, fra Ellington e Strayhorn. In mezzo alla confusione che sentirete sullo sfondo, è impressionante. Ellington sta suonando a memoria il pezzo e qui e lì sbaglia, non se lo ricorda, va a memoria, tenta, esplora, certe cose le sbaglia, poi le rifà, ma intanto sta suonando per sé il pezzo di Strayhorn, mentre intorno la gente parlotta. Questo è il dialogo intimo fra i due musicisti. Grazie e buona domenica.